Sì, si abbassa. Sì, bentornate, bentornate a Zadens Magnetics. Allora, io brevemente vi così dico di cosa parleremo stasera. Allora, per chi ha ricevuto la promo, abbiamo così usato queste parole: terra, fuoco, respiro, giù in strada. E perché il riferimento è a questo. Con terra volevamo fare questo riferimento a questo provvedimento dello Stato genocida israeliano, che ha legalizzato attraverso una legge, insomma, in questi giorni ha legalizzato l'annessione di oltre il 60% della Cisgiordania e l'annessione da parte dei coloni, e approfondiremo questo aspetto, e poi, se riusciamo, magari leggiamo anche qualcosa di della Nakba, del primo diciamo esproprio violento da parte dei sionisti della terra ai palestinesi. E fuoco, ci riferiamo sia al fuoco ICPR, appunto tutto quello che sta succedendo a Gradisca, che è successo nelle scorse giornate, ma che con queste rivolte continue, e anche un po' di risonanza, le rivolte hanno avuto un po' di risonanza anche, diciamo, nei mezzi di comunicazione mainstream. Ma con fuoco ci riferiamo anche a ciò che è successo a Decimo Mannu, manifestazione antimilitarista appunto in Sardegna, del 14 giugno, dove la polizia ha provocato un incendio. Sì, non è andata a fuoco la base, ma comunque, insomma, hanno avuto i loro problemi a domarlo, e poi ne parleremo, e parleremo appunto di questa manifestazione, anche delle ricadute della repressione. E con respiro ci riferiamo al fatto che con queste temperature dentro le carceri non si respira, e sono già, parleremo un po' delle rivolte che ci sono già state in questi giorni. Giù in strada perché è importante, di fronte a tutte le cose che stanno succedendo, non chiudersi nelle proprie case, non fare come se niente fosse, non abituarsi, non assuefarsi alla guerra che avanza, allo stato di guerra permanente, diciamo, che riguarda tutti gli aspetti della vita, ma scendere giù in strada. E perché presenteremo un corteo che ci sarà questo sabato 21 giugno a Udine, un corteo contro la guerra, contro il riarmo, contro la repressione, contro il decreto sicurezza, le zone rosse, il razzismo e tutte cose. Let's go! Bene, questi erano Viimeinen Kolonna, band finlandese di Helsinki, e ora invece andiamo all'ascolto di questa band di Graz in Austria. Loro sono i Violet Bloom e questo è il loro demo 2025. At times when she's blue, you made her smile. You caught her eyes and made them bright. You know what she likes and make things right. A perfect blossom of flowers is her heart's delight. Perfect blossoms, the flower that won your heart. Buy her a flower today. Sì, eccoci di nuovo in voce. Allora, dicevamo che affronteremo il discorso di questo cambiamento di legislazione rispetto alla proprietà terriera in Cisgiordania da parte dello Stato di Israele. Ecco, lo Stato di Israele è specializzato, oltre a tutte le altre cose, anche nell'utilizzare anche la questione della proprietà terriera, insomma del possesso delle terre, come un'arma di sterminio. E che cosa ha fatto in questi all'inizio di questo mese di giugno? Praticamente ha deciso di riprendere il processo di accatastamento per i terreni nell'area C della Cisgiordania, e dopo che questo processo era stato congelato, insomma. E questa decisione praticamente fa sì che i terreni palestinesi nell'area C non siano più trattati come territori occupati militarmente, ma come territori che fanno parte automaticamente dello Stato di Israele. Quindi i certificati di proprietà terriera dei palestinesi che appunto dal 1967 sono stati conservati, per non farla lunga, comunque, insomma, quando c'era la Giordania che ha creato questi certificati di proprietà in modo che potessero poi rivendicarli i palestinesi, e con questa cosa era possibile fino nella misura in cui la zona C, appunto l'area C della Cisgiordania, era considerata occupata militarmente. Nel momento in cui viene considerata invece territorio già automaticamente israeliano, questi certificati non valgono più, il che significa che l'esproprio delle terre è ancora più radicale, insomma, meno difficile da combattere. E allora vale la pena di dire questa, sì, e appunto i coloni diventano automaticamente, diciamo, legittimati a occupare le terre palestinesi e a farne ciò che vogliono. Allora, per dire due cose, praticamente negli accordi successivi agli accordi di Oslo del 93 tra Israele e Autorità Nazionale Palestinese, i territori della Cisgiordania sono stati divisi in tre aree, la A, la B e la C. L'area A comprende le città centrali, dove l'ANP esercita il controllo civile e anche di sicurezza, ma dove appunto le forze israeliane entrano regolarmente per arrestare i palestinesi, peraltro con l'aiuto dell'ANP stessa. L'area B comprende le aree urbane di città e villaggi, dove l'autorità nazionale palestinese ha solo il controllo civile ma non quello militare, e l'esercito israeliano controlla direttamente queste aree. L'area C invece, che rappresenta una grandissima parte della Cisgiordania, il 60%, comprende i migliori terreni coltivabili, le risorse idriche, i confini e le cime collinari, quindi le terre migliori, ed è proprio in questi territori che Israele sta avanzando da decenni con i suoi insediamenti, appunto gli insediamenti dei coloni. E appunto, quindi questa riforma, diciamo, della proprietà terriera ha proprio questo scopo di annientare anche quel minimo di resistenza, diciamo, legale che potevano avere gli abitanti palestinesi rispetto alle loro terre. E vediamo che cosa ci dice un contadino palestinese. Di questa cosa dice: quando ero bambino lavoravamo le terre a est della città. Questo contadino è praticamente a Taibè, a est di Ramallah. Quando ero bambino lavoravamo le terre a est della città, che si affacciano sulla valle del Giordano, proprio come avevano fatto i nostri padri per secoli. Alternavamo la coltivazione del grano un anno e di altri cereali come ceci e lenticchie l'anno successivo. La mia famiglia produceva 3 tonnellate di grano, da cui ricavavamo il necessario per fare il pane, perché tutto il pane che consumavamo proveniva da queste terre e il resto lo scambiavamo con altri prodotti e lo vendevamo. Dopo il 1967 il nostro lavoro nei campi è diminuito perché i nostri prodotti hanno perso molto valore, non potevamo più vivere di quella terra. Molti hanno iniziato a lavorare in Israele come operai edili, mentre altri, come me, hanno cercato un'istruzione all'estero. In quel periodo le famiglie beduine della Valle del Giordano iniziarono a usare le nostre terre per pascolare e vivere, e questa fu una situazione che ci permise di proteggere la terra dalla confisca da parte delle autorità israeliane, soprattutto dopo che queste terre furono classificate come area C negli anni 90. Abbiamo anche portato avanti la procedura di registrazione presso l'Autorità Nazionale Palestinese e ottenuto i nostri titoli di proprietà, e abbiamo pensato che questo ci avrebbe aiutato a dimostrare la nostra proprietà. Ora il governo israeliano ha dichiarato privi di valore quegli atti di proprietà dell'Autorità Nazionale Palestinese. Ma questo processo non è iniziato dopo l'ottobre del 2023. Il residente di Taibè ha spiegato che le autorità israeliane consideravano già gli atti di proprietà dell'ANP come di valore secondario molti anni prima. Nel 2020 i coloni israeliani hanno aperto un piccolo avamposto sui nostri terreni orientali, classificati come area C, e hanno iniziato a far pascolare le mucche, allontanando i beduini, ha spiegato questo contadino di Taibè. Quando un gruppo di proprietari terrieri, me compreso, è andato a schierarsi con i beduini e ha mostrato i nostri titoli di proprietà, la polizia israeliana sul posto ci ha detto che i nostri titoli di proprietà palestinesi erano inutili e che dovevamo procurarcene di nuovi israeliani. Questo è successo già nel 2020. E quali saranno le conseguenze di questa decisione del governo israeliano? Non saranno i coloni israeliani a chiedere la legalizzazione dei loro avamposti. La legalizzazione avverrà quasi immediatamente, mentre i palestinesi saranno considerati stranieri, costretti a giustificare la loro rivendicazione sulle terre delle loro famiglie e dei loro antenati. E sempre su questo discorso dell'esproprio delle terre e del rendere i nativi stranieri nelle loro terre, vi leggo una paginetta di Mahmoud Darwish, una trilogia palestinese, che racconta del suo villaggio, Birwa, che appunto ha subito nel 48 questo, tra il 48 e il 49 questo annientamento, e poi Mahmoud Darwish racconta dell'esilio insomma in Libano e poi del rientro clandestino. E, nelle notti d'inverno i fratelli di Veglia ed Esilio si scambiavano opinioni sui combattimenti in corso in Palestina, finché non hanno letto della caduta di Birva. Ma non era già caduta? Sì, per una sola notte, poi i contadini l'avevano liberata con armi primitive e con l'aiuto dei paesini vicini. Subito dopo la liberazione si erano messi a raccogliere il grano mietuto che li aspettava sulle aie. Poi l'esercito arabo aveva occupato il paese e non sappiamo come mai in seguito gli israeliani fossero riusciti a impadronirsene di nuovo. 20 anni dopo, dopo la resa di molte città arabe, le idee che stavo esponendo in ebraico a un mio amico non sono piaciute a un uomo seduto al ristorante. Ha preso subito le difese dell'oppressione israeliana con una giustificazione che riteneva inconfutabile. Sosteneva che non conoscessi gli arabi, altrimenti non avrei parlato di giustizia con quel tono. L'ho pregato di spiegarsi meglio. Allora, corrugando la fronte, mi ha chiesto se avessi già sentito parlare di un paese chiamato Birva. No, dov'è? Ho risposto. È scomparso dalla faccia della terra perché l'abbiamo raso al suolo, abbiamo ripulito il terreno dai sassi, l'abbiamo arato e ci abbiamo piantato sopra degli alberi per nasconderlo. Per nascondere il vostro crimine? Ha protestato rettificando, al contrario, per nascondere il crimine di quel paese maledetto. E qual era il suo crimine? Ho domandato. L'averci resistito, l'averci combattuto, ci ha provocato gravi perdite e ci ha costretto a occuparlo 2 volte. La prima volta stavamo cenando, il tè era caldo, i contadini ci hanno colti di sorpresa e ce l'hanno ripreso. Come potevamo accettare quell'umiliazione? Tu non conosci gli arabi, te lo dico io. Quando l'ho informato, caro arabo, e precisamente di Birva, ha provato a scusarsi con garbo imbarazzato e mi ha parlato di pace. Poi mi ha invitato a visitare il suo negozio dove vendeva mobili e utensili domestici saccheggiati dalla città siriana di Quneitra. Pochi giorni dopo, 2 insediamenti israeliani festeggiavano il loro 25esimo anniversario sulle terre di Birva. Stavo parlando dell'oppressione subita dagli arabi a una conferenza stampa quando un corrispondente del giornale Altistitan mi ha interrotto. Gli ho fatto presente la notizia dell'anniversario. Allora ha provato a scusarsi con garbo imbarazzato e mi ha parlato di pace. Sono fatti così: prima commettono il crimine, poi lo negano, ma quando la vittima li affronta glissano parlando di pace. E qui Mahmoud Darwish cita l'Antico Testamento. Vi diedi una terra che voi non avevate lavorata e abitate in città che voi non avete costruite e mangiate i frutti delle vigne e degli oliveti che non avete piantati. Giosuè. Ti è capitato di visitare Birva in seguito? Quando mio nonno si è reso conto che la nostra permanenza in Libano non era un viaggio né una gita, che la guerra era finita e aveva perso tutto, che gli ebrei mangiavano i frutti dei suoi alberi, che in mano gli restava soltanto una tessera alimentare, ha intuito che partire era stato un errore, ha preso coscienza dell'esilio e dell'espulsione e invece di continuare a riporre speranze nell'esercito arabo, ha sentito la necessità di reclamare l'effettiva appartenenza alla Palestina con la presenza fisica. Il trauma prodotto dalla delusione delle armi su cui gli altri potevano fare affidamento ha portato alla consapevolezza di doversi infiltrare clandestinamente e a qualsiasi costo nella patria occupata per attestare la propria presenza in loco e liberarsi dall'umiliazione. Una notte, rischiando la vita, ci siamo infiltrati in Palestina per un sentiero impervio. Non abbiamo viaggiato insieme perché temevamo di esporre l'intera famiglia al pericolo e correre il rischio di venire decimati tutti insieme. Dopo 2 notti di marcia estenuante, ci siamo rincontrati in un paesino laggiù. Eccoci di nuovo in Palestina. Dunque era quello il ritorno. Non potevamo sapere che da profughi in Libano ci saremmo trasformati in profughi in patria. Non potevamo sapere che la nostra presenza fisica in patria sarebbe diventata assenza nella legge imposta dagli invasori in tutta fretta. Ci chiamavano i presenti assenti, perché non avevamo diritto a nulla. Abbiamo saputo di migliaia di persone di ritorno che, catturate, erano state caricate su camion militari e scaraventate fuori dal confine, come si fa con merce avariata. Abbiamo saputo che hanno sparato a centinaia di infiltrati clandestini come deterrente contro i tentativi di ritorno. Abbiamo saputo ad esempio che il marito di mia zia si era infiltrato dal Libano in quel periodo, ma non è mai arrivato. Che cos'è più doloroso, essere profugo in un'altra terra o nella tua? Quando il cittadino arabo vedeva l'agricoltore israeliano immerso tra polvere e sudore nel duro lavoro dei campi, per ricavarne frumento e uva a vantaggio di chi arrivava da ogni parte del mondo, mentre agli arabi era proibito il mero pellegrinaggio della propria terra, questa ininterrotta sopraffazione psicologica prodotta dalla realtà israeliana non poteva che suscitargli una domanda: la terra è sacra fino a questo punto? Per i palestinesi la risposta è sì. Intanto stiamo ascoltando sempre la band di Graz che avevo presentato prima, ovvero i Violet Bloom. Tutti e a tutte, sono un compagno di Antitesi, organizzazione comunista. Ringrazio Zaldins Magnetics per lo spazio per presentare un'iniziativa che si sta svolgendo proprio mentre Zaldins Magnetics è in onda su Radio Onde Fullane. Si tratta di una iniziativa di solidarietà in Campo San Giacomo a Trieste, una serata di solidarietà per Anan Yaesh. Chi è Anan Yaesh? Anan Yaesh è un partigiano palestinese, lui stesso si definisce così, è nato a Tulkarem, quindi in Cisgiordania, nel 1987. Ha partecipato alla seconda intifada, è stato incarcerato per oltre 4 anni dalle autorità occupanti, nel 2006 è stato gravemente ferito dalle stesse e dal 2017 risiede in Italia all'Aquila, ha ottenuto lo status di protezione speciale. In un assurdo cortocircuito giuridico politico, il 26 gennaio 2024 è stato arrestato dalle autorità italiane per una richiesta di estradizione da parte del regime sionista, da parte della cosiddetta Israele, che è stata accolta dal governo italiano. Ora, questa richiesta di estradizione è stata respinta dalla Corte d'Appello dell'Aquila, ma Anan Yaesh è ancora, da gennaio 2024, detenuto nel carcere di Terni, un carcere con sezione speciale, con prigionieri rivoluzionari all'interno, ricordo compagno Juan Soroce, militante anarchico, ricordo Cesare Di Lenardo, che è in carcere nel 1982, militante delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente, e un carcere dove tra l'altro pochi giorni fa c'è stata anche una rivolta da parte dei detenuti per le condizioni insomma pesantissime di detenzione, aggravate naturalmente dalla calura di questi giorni insomma. E Anan Yaesh è detenuto, tuttora detenuto, perché al di là della bocciatura della richiesta di estradizione è oggi sotto processo, il processo è iniziato al Tribunale dell'Aquila per 270 bis, cioè per associazione terroristica anche internazionale. Quindi in sostanza Anan Yaesh è sotto processo dai giudici, dalle autorità giudiziarie italiane, è stato rinviato a giudizio, tra l'altro assieme a altri due cittadini palestinesi che condividevano la sua abitazione qui in Italia, Ali Rar e Mansour Dogmush, per associazione terroristica 270 bis per compiere attentati a livello internazionale. Quindi in sostanza per aver combattuto l'occupazione del loro paese, della Palestina. E Ali Rar e Mansour Dogmush sono stati arrestati nel marzo 2024, quindi 2 mesi dopo Anan, ma sono stati scarcerati nel settembre del 2024, sono oggi a piede libero, come si usa dire, e Anan è ancora invece detenuto. E quindi mentre insomma il regime sionista sta conducendo un genocidio insomma a Gaza, e un genocidio insomma sotto gli occhi del mondo, ecco. E tra l'altro che ha comportato anche una messa in stato d'accusa proprio per questo genocidio del attuale primo ministro del regime sionista, il criminale Netanyahu, e lo Stato italiano non solo collabora insomma praticamente a tutti i livelli con l'entità sionista e con le sue politiche genocidiarie. Ricordiamo che insomma l'8 giugno è stato rinnovato automaticamente l'accordo di collaborazione militare strategica tra regime sionista e Stato italiano. Non solo l'Italia fa questo, e lo fa con un regime che non sta solo massacrando i palestinesi, ma sta coinvolgendo tutta l'area del Medio Oriente in dinamiche di guerra, pensiamo da ultimo all'aggressione all'Iran, tuttora in corso, e quindi è un precipitare della situazione anche globale a causa delle politiche belliciste del cosiddetto Israele. Non solo lo Stato italiano continua ad affiancare questa entità criminale, ma all'interno dei suoi confini arresta palestinesi che già dichiarati esuli politici dalle sue stesse corti, dalle stesse corti dello Stato italiano, li arresta per aver compiuto azioni, attentati, azioni di resistenza contro gli occupanti del loro paese. E lo fa sulla base di un 270 bis che, ricordiamo, è stato mutato dopo gli attentati del settembre 2001, no? Quindi in associazione terroristica anche internazionale, quindi qualsiasi atto di resistenza nel mondo, perché questo è quello che si definisce solitamente, generalmente con terrorismo, con la dicitura terrorismo, nella comunicazione ufficiale, nella comunicazione giuridica degli stati imperialisti, insomma, qualsiasi atto di resistenza può essere perseguito dai tribunali italiani e punito in questo paese con la carcerazione, con anni di carcere. E questo è la vicenda di Anan Yaesh. Con Anan Yaesh è in corso una campagna di solidarietà a livello italiano, a cui Antitesi aderisce, a cui insomma sono chiamati ad aderire, a collaborare tutti gli antisionisti, tutti i solidali con la causa palestinese e tutti coloro che vogliono contrastare questa deriva repressiva da stato di guerra che insomma stiamo vivendo, e che Anan Yaesh rappresenta in maniera forte e chiara, perché è un prigioniero rivoluzionario, resistente in un paese imperialista per aver combattuto nella sua terra occupata da un'altra potenza imperialista, anzi da un regime coloniale come Israele. E quindi la solidarietà con Annan è una solidarietà che deve essere legata in generale al contrasto a quello che è una spirale repressiva che insomma stiamo vivendo, che è conseguenza interna di una condizione, di una deriva di guerra a livello internazionale sempre più pesante, che insomma in Palestina sta colpendo nella sua forma più brutale con un genocidio in corso. Ecco, quindi questa è la finalità di questa serata: raccogliere insomma soldi per l'assistenza legale di Anan Yaesh. E invito a moltiplicare le iniziative in questo senso, in generale a mobilitarsi in solidarietà alla Palestina che resiste, e in generale a mobilitarsi contro la guerra imperialista e lo stato di guerra sul fronte interno. Grazie ancora dell'attenzione, grazie ancora a Zardins Magnetics. Un saluto da Trieste. Oh! E adesso qui presentiamo questo album, più che un album è una compilation, anzi addirittura è un tributo ad una band storica del punk hardcore svedese, ovvero gli Anticimex, ed è un tributo a livello internazionale dove all'incirca oltre 20 band hanno partecipato appunto a questo album. Un saluto a tutte e tutti anche da parte mia per questa così questo mio intervento di stasera a Zardins Magnetics. Siamo quindi come sempre in diretta scusate da il giovedì sera e poi insomma anche dopo, come diciamo spesso, ecco, a chi ci ascolta il venerdì. Niente, facciamo insomma una ancora, dato che ha parlato il compagno di Antitesi, io mi riallaccio alla questione, due cose: un'iniziativa importante in corrispondenza con le udienze che si terranno all'Aquila, appunto dove è imputato Anan Yaesh. Ci saranno 4 giorni di iniziative: martedì 24 giugno, mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27, appunto il 27 alle 9:30 l'udienza, e anche prevista ospitalità. Ecco, tutto questo dove? Me lo so dire fra poco. Vabbè, insomma, siccome siamo appena il 19, sarà la prossima volta, vi specificherò. Comunque ci sarà anche il corteo mercoledì, dicevo, sempre all'Aquila ovviamente, con il percorso, un incontro pubblico c'è l'indirizzo, se cercate insomma poi metteremo anche nei nostri canali, per concludersi appunto mercoledì, scusate la confusione, c'è il primo giorno di udienza mercoledì mattina, poi il corteo nella serata alle 18 e il giovedì secondo giorno di udienza, venerdì terzo giorno di udienza, il giovedì pomeriggio assemblea pubblica a Case Matte, cena e concerto di un gruppo. Ecco questo, e sempre per invece, questo non c'entra con Antitesi, ma Antitesi approfittiamo del fatto che i compagni comunisti si sono espressi riguardo alla sentenza di martedì scorso, 17 giugno a Milano, c'è stata la sentenza al procedimento nei confronti di dei compagni e le compagne che avevano partecipato al corteo dell'11 febbraio 23 in solidarietà a Alfredo Cospito. Dice il comunicato di Antitesi: le condanne sono state più pesanti di quanto richiesto dall'accusa. Nonostante un'assoluzione, gli anni di carcere complessivi sono aumentati. Tutto questo accade mentre in Palestina continua il massacro, mentre l'Iran viene bombardato, e qui in casa nostra chi si mobilita contro il sistema di sfruttamento e si pone su un terreno rivoluzionario subisce la repressione. Lo Stato italiano che si prepara alla guerra ha bisogno di, prima di tutto, di una popolazione domesticata, obbediente e incapace di reagire. Per questo rafforza il proprio apparato repressivo, lo fa attaccando esemplarmente ogni forma di dissenso, con particolare attenzione a chi si pone su un piano rivoluzionario, vedi il caso di Annan, di Ali e Mansour. Lo fa con l'ultimo decreto sicurezza che inasprisce ulteriormente le pene, lo fa minacciando e condannando al carcere chi esprime solidarietà alla resistenza palestinese e si mobilita contro la guerra imperialista, vedi il caso di Tarek a Roma o quello di Luca in Sardegna. L'imposizione del 41 bis ad Alfredo Cospito non era stata un'eccezione né un errore, ma un chiaro messaggio a chi si muove sul terreno rivoluzionario e non rinnega la propria identità nemmeno dietro le sbarre. Anche questo processo è parte dello stesso disegno di imporre la pace sociale. È un tentativo di intimidazione, un tassello del più ampio stato di guerra interno che lo Stato sta costruendo. La risposta può essere una sola: organizzare le lotte, sostenerle ovunque, rafforzare la solidarietà, contrattaccare la repressione. Ecco, quindi 4 anni e 7 mesi per i cortei contro il 41 bis, sentenza di guerra, solidarietà alle compagne e ai compagni condannati. Io, a proposito di questo pesante cappa relativa al fatto che circa da una settimana c'è un'aggressione di Israele all'Iran, riguardo a questo voglio solo dire questa cosa, insomma, più vicina. Cioè, non perché, insomma, per non ripetere cose o opinioni che si sentono da mattina a sera sui media, e voglio dire questo, che c'è un fatto, insomma, di cui hanno giustamente messo l'accento i ferrovieri contro la guerra. E che riguarda la linea ferroviaria Pisa-Livorno, trasporti militari e pendolari a piedi. Appunto, questo approfondimento su Radio Blackout che trovate appunto sul loro sito. La circolazione ferroviaria tra Pisa e Livorno, e perché poi? Proprio sulla Pisa-Livorno, perché la linea ferroviaria si trova. È la linea di comunicazione, appunto, che collega la Camp Derby alla rete ferroviaria italiana. La circolazione tra Pisa e Livorno nel mese di giugno viene interrotta per 7 giorni, dalle 9.50 alle 12.50. In questo modo numerosi pendolari subiscono gravi disagi. La motivazione ufficiale agli altoparlanti è manutenzione a tombolo. Viene omesso che l'ultima azione di questi scambi e questi binari, iniziati nel 2017, comporterà un incremento sostanziale al traffico di armi, esplosivi e munizioni tra la stazione ferroviaria di Tombolo, canale Navicelli e Camp Derby, il più grande arsenale degli Stati Uniti d'America fuori dal suolo statunitense. Questo territorio, compreso tra il porto di Livorno e l'aeroporto militare di Pisa, è centrale per la logistica della guerra. La guerra inizia anche qui, possiamo fermarla, dice così la redattrice. No, scusate, sono degli stralci di un documento dei ferrovieri contro la guerra e coordinamento antimilitarista livornese. Questo territorio, l'ho già detto, la guerra inizia qui, sosteniamo una circolazione ferroviaria civile e sicura, contrastiamo l'uso della rete ferroviaria a scopo bellico. E, tra l'altro, Camp Derby non è distante, cioè quella zona, la zona appunto del, chiamiamolo, litorale toscano, e proseguendo su, insomma, verso le Cinque Terre, la Liguria, eccetera, eccetera, non è un caso che lì venga messo un focus, diciamo, da parte delle infrastrutture dello Stato italiano, perché nei paradisi, insomma, in Liguria comunque c'è, ci sono dei porti, La Spezia, il più grande porto, uno dei più grandi porti militari sul Mediterraneo, quantomeno italiani, e poi c'è sede, insomma, i cantieri della Fincantieri, dove di Fincantieri ci sono appunto le officine dove vengono assemblate tutte le navi armate, le navi così di attacco della Marina Militare, e ci sono varie sedi di Piaggio e di Leonardo, di varie, insomma, adesso anche lunga spiegare tutte le cose. Mi sembra Pisa, tra l'altro, c'è anche, è situato il supercomputer Da Vinci, non a caso, perché appunto tramite le capacità di calcolo dei supercomputer vengono caricati appunto questi computer con tutte le, diciamo, i dati relativi ai passaggi, alle reti appunto di comunicazione su rotaie, su strada, eccetera, per elaborarle e, diciamo, produrre insomma metterle in facilitarle in qualche maniera, ecco, aumentare la capacità dei mezzi di trasporto, delle reti infrastrutturali e del trasporto. Ultima cosa su questa vicenda, cercando di stare appunto terra a terra, spostandoci dalle nostre parti, invece qui nel così nord-est, chiamiamolo, insomma, nel senso che riguarda non solo il Friuli, ma insomma le zone anche vicine, e se alzate lo sguardo verso il cielo in questi giorni lunghi, più lunghi dell'anno, vedrete, si vedono delle scie, cioè, a parte le scie, voglio dire, ma si vedono traiettorie di evidentemente aerei molto, molto in alti, e non le solite rotte che atterrano, insomma, nell'aeroporto piccolo che abbiamo qui a Ronchi. Sono per lo più, insomma, che vanno verso il mare, e si trovano delle così delle cose sinistre a tal proposito, perché delle notizie, insomma, se andate ad approfondire, c'è un movimento di aerei particolarmente intenso dalla metà della settimana, e in particolare appunto riguarda questi come si chiamano, cisterne aeree, praticamente sono dei Boeing adibiti al trasporto per il rifornimento, insomma, dei cacciabombardieri. Sono decollati da varie basi negli Stati Uniti, insomma dal Midwest a, insomma, da posti lontani da qua, e si sono insomma serviti sia dell'aeroporto RAF di Mildenhall, della base degli Stati Uniti a Morón de la Frontera, e poi appunto Ramstein in Germania, e Aviano, oltre a Creta, dove c'è anche là una base degli Stati Uniti. Sì, no, ovvio che noi non sappiamo comunque motivi precisi, nessuno li sa tranne i militari. si tratta di appunto uno spostamento del, che questo è, comunque è stato comunicato, è stato, sì, è stato esplicitato da, dalle autorità anche civili americane, di un appunto spostamento di forze sul Mediterraneo orientale, e quindi insomma l'Italia si trova sul Mediterraneo in mezzo, e inevitabilmente sono cose che toccano, ci toccano da vicino. E qui, ecco, ho concluso quello che dovevo dire. Adesso però voglio lanciare una video risposta, che ovviamente il video non sarà disponibile in audio, una video risposta alla richiesta dell'altra puntata, che se ricordate era Piero Ciampi con andare a camminare, lavorare, eccetera. E prego di far partire il contributo. Vedo una nave con grandi vele sull'albero maestro, e dalla poppa penzola una canoa. Non è che la tua immaginazione. Quale nave può spingersi fin qui? Abbiamo tutti la febbre. È un'allucinazione. Si dice che questi sono segni che indicano l'approssimarsi della fine. Chiudi il becco, prete. Quella nave non è una visione. Con lei raggiungeremo il mare. No, Lope di Aguirre, io non verrò con te. Non lo vedi che stiamo morendo? Non c'è nessuna nave. Nessuna foresta. E nemmeno frecce. Le frecce le immaginiamo perché ci fanno paura. Bastardo, sono frecce vere queste! Sì, ma questa freccia non può farmi più niente. E questa non è pioggia. Prete, non dimenticarti di pregare, altrimenti il tuo Dio te la farà pagare cara. Thank you. intanto stiamo ascoltando questa band austriaca, anche loro di Graz, Kotva, da questo loro CD datato 2015. Sì, e adesso passiamo a parlare della manifestazione che c'è stata il 14 giugno in Sardegna a Decimo Mannu, appunto una manifestazione contro l'aeroporto militare di Decimo Mannu. E ci raccontano le compagne e i compagni: siamo state all'aeroporto militare di Decimo Mannu, ci siamo trovate davanti a un enorme dispiegamento di forze dell'ordine, perquisizioni personali alle auto. Noi non eravamo migliaia, la fortuna, diciamolo, non sembrava girare dalla nostra parte, eppure siamo riuscite a fargliela anche questa volta. Con tutta la nostra determinazione abbiamo deviato per i campi per avvicinarci all'aeroporto militare. Siamo riuscite ad arrivare in prossimità delle reti e la polizia, ormai tesissima, ha tirato lacrimogeni contro il corteo. Contemporaneamente l'elicottero è stato usato come sfollagente e scendeva ad altezza uomo per fare vento. Chiaramente i lacrimogeni tirati dalla polizia hanno dato fuoco ai campi e il vento generato dall'elicottero ha contribuito a far divampare l'incendio, facendo sì che, nonostante idrante, che tra l'altro l'idrante appunto era stato portato lì per sparare all'acqua contro i manifestanti e vigili del fuoco, fosse molto difficile da spegnere, hanno dovuto utilizzarlo per spegnere l'incendio. La leggerezza con cui hanno messo a rischio l'incolumità di tante manifestanti ci dà solo la conferma di essere dalla parte giusta e di dover continuare a lottare. Preparano guerre e genocidi in giro per il mondo e noi non dimenticheremo mai la gioia di vedere sventolare la bandiera palestinese davanti a uno dei loro avamposti che brucia. Speriamo che la giornata di oggi, del 14 giugno appunto, sia di ispirazione per tutte quelle future, che ci dia la consapevolezza che siamo forti e che nulla è mai perduto, che nuovi immaginari e possibilità si possono aprire sempre, anche nei momenti che sembrano più bui. E cogliamo l'occasione per esprimere solidarietà con il compagno Luca, compagno sardo, e noi tra l'altro abbiamo una particolare simpatia per tutti i compagni sardi e per la loro determinazione e decisione nelle lotte. E Luca è stato appunto arrestato il giorno prima del corteo di Decimo Mannu, è stato messo poi agli arresti domiciliari per una manifestazione che si è svolta in precedenza a Cagliari, appunto una manifestazione contro la guerra e in solidarietà alla Palestina. Vi leggo brevemente le sue parole. Cita direttamente dalla sua incriminazione: i fatti sopra descritti possono essere considerati indici di un'indole incline alla prevaricazione e alla sopraffazione, specie nei confronti delle istituzioni militari, sintomatica di una personalità pericolosa e socialmente allarmante. Con queste parole, tra le tante, nel pomeriggio di ieri 13 giugno è stato disposto il mio arresto domiciliare in seguito ai fatti avvenuti il 10 maggio a Cagliari durante un corteo in solidarietà al popolo palestinese. In quell'occasione nel porto di Cagliari era presente la nave militare Trieste, nella quale venivano eseguiti screening pediatrici gratuiti sponsorizzati dalla fabbrica di bombe RVM, da Amazon, Terna e altre multinazionali. E continua Luca: sono nato e cresciuto in una terra colonizzata e piegata agli interessi di uno Stato che ci usa come discarica, come laboratorio di guerra e come Luna Park per gli eserciti di mezzo mondo, come luogo in cui costruire supercarceri anziché ospedali, un luogo buono per piantare pale eoliche e pannelli fotovoltaici anziché permettere lo sviluppo di attività autoctone e sostenibili per l'ambiente. La miseria in cui ci hanno ridotto è la stessa che ci porta ad accettare tutto, a non lamentarci mai di nulla, a non lottare per modificare la nostra condizione subalterna. La stessa che porta tante persone a non capire le mie scelte, che sono poi quelle che mi hanno portato a questa condizione. Ma le condizioni sono buone o cattive in base a dove le si guarda. Se per tanta gente la mia situazione è considerata una disgrazia, perché sono rinchiuso in casa, per un abitante di Gaza non sono altro che un privilegiato che almeno una casa ce l'ha. Cosa c'è da aggiungere davanti alle immagini dello sterminio e dei bombardamenti, davanti alle più atroci azioni di prevaricazione e sopraffazione? Per me l'unico posto giusto è quello a fianco a chi prova ad opporsi. Sempre a Innantis, po una vida e una terra liberas, da essa guerra e da essa tirannia, cum sa Palestina in su coru. E stiamo ascoltando questa band francese, i Vingt Minutes de Chaos, band che è uscita con questo album 12 pollici, in realtà uno split assieme ai brasiliani Execradores, comunque album uscito nel 2002. Ed è venuto il momento di presentarvi l'iniziativa che si svolgerà qui a Udine sabato, tra due giorni, quindi sabato 21 giugno. E si tratta, appunto, come dicevo all'inizio, di un corteo contro il riarmo, contro la guerra, contro il decreto sicurezza, le zone rosse, contro la repressione, i lager di Stato, le carceri, insomma. La partenza è prevista per le ore 18:30, concentramento alle ore 18, in un posto sensibile della città, e cioè davanti alla caserma Cavarzerani, che è il CAS cittadino, dove le persone tra l'altro vivono in condizioni critiche, e una zona particolarmente anche militarizzata. Beh, si tratta di un'ex caserma, appunto, e ci sono dei container, le persone vengono così tenute lì in una situazione molto abbastanza precaria, e quindi abbiamo scelto di, come assemblea, appunto, contro il decreto sicurezza e le zone rosse, si è scelto di partire proprio da quel punto lì, anche se non è un punto centrale della città, ma però si tratta di una via, è via Cividale, una via, diciamo, di accesso alla città, quindi comunque è importante quella strada lì, diciamo, utilizzare quella strada lì. Quindi si farà questo, la partenza sarà da lì, poi si arriverà al carcere, altro luogo sensibile e colpito particolarmente, la popolazione detenuta colpita particolarmente da questa recrudescenza della repressione, e poi si farà, insomma, un altro giro fino ad approdare a Piazza Primo Maggio, che è una piazza cittadina, per chi non è di Udine, insomma, abbastanza frequentata. Sì, mi pare di aver detto tutto. Chiaramente ci sarà il microfono aperto, musica, interventi, sarà un corteo piuttosto lunghetto come chilometraggio, ci rendiamo conto della calura, ma insomma bisogna anche un po', non si può stare a casa, ecco, nonostante la calura bisogna assolutamente scendere in strada, quindi siete tutte invitate e invitati a partecipare, chi lo può fare. E niente, per stasera siamo quasi agli sgoccioli, noi vi diamo intanto appuntamento alla prossima settimana, prima di lasciare la parola alla regia per i contatti. Bene, mentre sta andando in sottofondo questa band austriaca, i Kotva, dal loro album uscito nel 2015, tra l'altro è il loro secondo album, ne avevano fatto uno nel 2014, questo si chiama Viva Punk 2. Bene, e siamo agli sgoccioli per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che ogni giovedì è in diretta radiofonica qui in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30, quindi l'appuntamento è anche per il prossimo giovedì. oggi 19 giugno 2025. Ricordo che questa trasmissione funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e come di consueto vi leggo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica dovete scrivere a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Inoltre questa trasmissione, ma anche tutte le scorse edizioni, ovvero tutti i giovedì degli ultimi mesi e mesi e mesi, potete riascoltarli nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi ci salutiamo, salutiamo anche chi ci ascolta domani venerdì in replica su Radio Eustachio dalle ore 11 e anche su Radiazione dalle ore 17, ed entrambe queste sono due web radio. Quindi ciao a tutti, al prossimo giovedì, e se riusciamo ascoltiamo ancora questi Kotva. Ciao a tutti.